sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Con questo programmino, perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Sono tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Popolo della radio, popolo della zanzara, iniziamo subito con Rosi Bindi contro Berlusconi. Vabbè, non c'è niente di nuovo, non c'è niente di nuovo, però gli ha dato dell'uomo, gli ha dato dell'uomo, e Rosi Bindi, come al solito, se l'è un po' presa, se l'è un po' presa. Come al solito. Ma sì, ma dagli una mano, stringigli la mano, fagli un buffetto, no? Invece sempre la cosa moralistica. Io con ma nessuno si sente offeso, scusa. Io con Berlusconi non mi ci sporco, sì, vabbè, ho capito. Berlusconi è così, dai, insiste anche con la Bindi perché sa che provoca casino, no? Sulla Bindi, ormai è diventato quasi un classico. Poi, insomma, no, non ancora discutere su Berlusconi, sulla cafonaggine di Berlusconi, sulla presunta cafonaggine di Berlusconi, sul fatto che sul sessismo, su come tratta le donne, ancora 20 anni dopo, dai, su. Berlusconi le ha detto: non mi aspettavo che un uomo si commuovesse così. Allora, quello che io mi sono chiesta è dove lei abbia trovato la forza per sorridere, per accennare un sorriso e rifiutare il baciamano. Io non mi ci sporco. Cioè, qualcuno mi ha detto oggi: ma perché non gli hai dato un pugno? E non mi ci sporco con Berlusconi. Pure la Gruber. Pure come la Gruber. Lotta, come sì, lotta, per carità, lotta per carità. Lotta, però pure la. Come ha trovato la forza? Come Ma che c'è? Capito, perché uno deve incassare sempre? Questo non ma capisco. No, ma infatti non incassa per niente. Mica in casa. Appunto, mica appunto, in casa, ma no. Ma... No, nella tua logica. Ma no, dire. Ma è quel moralismo. Non mi sporco con Berlusconi. Non mi sporco. Vabbè. Ma il tempo poi, è neve al nord, volevo dirti sì, questo. E piogge violente al centro. E sti cazzi. Questo, vabbè, però. Gente in macchina. No, ma la Bindi dice anche che è più grave, secondo lei, la barzelletta sulla mafia, che io ho trovato effettivamente eccezionale. Barzelletta sulla mafia fantastica di Berlusconi nel giorno dell'insediamento di Mattarella, che ha un fratello, come sapete, ucciso dalla mafia. Beh, devo dire che siamo veramente al top per Berlusconi, al top assoluto. Cioè, insediamento di Mattarella. Sì. Famiglia, no? La mafia, Palermo, Piersanti, Mattarella. L'opportunità, no? Di barzelletta dire una cosa sulla mafia davanti ai suoi deputati, senatori riuniti là. Beh, ma ragazzi, ma dove lo troviamo uno così? No, certo. È eccezionale. La cosa più grave è la barzelletta che ha raccontato sulla mafia. Sì, accanto al non neopresidente. Ieri con Mattarella, che ha il fratello ammazzato per mafia, che diventa presidente della Repubblica, al ricevimento al Quirinale racconta una barzelletta sulla mafia. Cioè, che dobbiamo dire? Dobbiamo ancora usare, sprecare parole? Ma la sai qual è la barzelletta, Parenzo? mi pare di averla vista sui siti da qualche parte. Beh, non sai un cazzo come al solito. Allora, un mafioso viene fermato dalle forze dell'ordine. Un mafioso viene fermato dalle forze dell'ordine che gli chiedono: ma scusi, ma lei che cosa nasconde nel bagagliaio? Lui dice: beh, una calcolatrice. Poi gli vanno lì, trovano una lupara, e lui si giustifica: noi i conti in Sicilia li facciamo così. È bellissima. È bellissima. È soltanto il momento forse che uno può criticare. Senti quel genio del ministro Boschi. Beh, amici miei, già aveva detto nei giorni scorsi una puttanata su quel famoso limite del 3%, che in Francia era il 10%, puttanata, perché l'ha calcolata in maniera diversa. Già l'abbiamo vista all'opera l'altro giorno, non mi ricordo su quale argomento, ma insomma ieri si è quasi superata. E tu la sai la questione molto noiosa dei capilista bloccati nella legge, eccetera. Sono previsti una vergogna assoluta. Avremo un sistema di deputati Serie A, esatto. Anzi, candidati deputati di Serie A e di Serie B, sostanzialmente sfigati, anzi, e quelli invece che devono che sono garantiti, e gli altri che devono cercarsi le preferenze. Vabbè, questa è però la legge elettorale. Comunque, la Boschi dice che non li chiamerebbe capilista bloccati. Senti. Intanto io non li definirei capolista bloccati, ma sono rappresentanti del territorio, quindi sono candidati di collegio che hanno un rapporto. Rappresentanti del territorio, ma se avete permesso anche le pluricandidature, cioè uno può essere candidato in 4.000 collegi insieme. Dai, su, ma perché questo uno si è sempre fatto, però, perché uno deve prendere? Ma questo è sempre fatto, nel senso che ad esempio Bersani, Berlusconi si candidavano, ma lascia perdere, ma perché devi specificare? Ha detto una puttanata, e poi ha detto una puttanata, ha detto una puttanata, ha detto una puttanata, non devo, bisogna dirlo, spiegando cosa non me ne frega niente, non bisogna spiegare. Tosi, il sindaco di Verona, propone un registro per le coppie di fatto. Molto bene, Salvini è un po' incazzato perché non ne sapeva niente. Senti Salvini che dice che i sindaci hanno altre urgenze, non solo non ne sapeva niente, ma no, dice anche che hanno altre urgenze. Hanno altre urgenze. Flavio Tosi ha detto, aperto alle unioni gay: penso che le urgenze e le emergenze per i sindaci della Lega, ma per tutti i sindaci, siano altre. Case, scuole, asili. A Salvini non piacciono i registri per le coppie gay. In realtà Tosi ha aperto a metà, perché prevede registri aperti a tutte le coppie di fatto, non solo le coppie gay. Il caso Toscani. Lì ti volevo. Ma hanno chiamato voi, dal Corriere del Veneto poco fa. No, ma secondo voi. Allora, io dico una cosa, secondo voi è una lettera di scusa quella che ha mandato Toscani al governatore Zaia? Sì, l'ho letta. No, certo. Non è una lettera di scusa, è un'enorme presa per i fondelli. Io non dico che debba chiedere scusa, anzi, secondo me non deve chiedere scusa. È nello stile Toscani, leggere nei passaggi, ce l'ho qua davanti. Ho capito, è una presa per i fondelli. Cosa vuol dire? Ma che si doveva dire? Oh, mi scusi, scusi per le parole che ho usato. Allora, lui dice, faccio una sintesi: sono lombardo e atavicamente leghista, presa per il culo. Come voi ho nell'anime il sentore di latte vaccino e quella voglia naturale di non pagare le tasse. Vabbè. Dice, gli evasori potenziali ai veneti, esatto, tra l'altro, quelli del nord, ai padani, non so quello che è. Poi dice: chiedo scusa a lei che è il presidente di tutti i veneti astemi, degli alcolisti sobri e dei bevitori moderati. Ma è bellissima. Per il linguaggio un po' leghista che ho usato per fotografare i miei simpatici amici del Veneto, nella sostanza però dentro di me confermo tutto, cioè dentro di lui conferma tutto. Poi, siccome vuole evitare casini, probabilmente fa questa bellissima lettera di quasi scuse. Io fossi Zaia, per una questione di logica, a questo punto, se hai preso un impegno con i veneti di andare in tribunale, dopo una lettera del genere, che è un'enorme presa per i fondelli, andrà in tribunale. Ma dai, ma è tutto ridicolo, fa tutto ridere, dai. Io me lo ricordo comunque al Vinitaly, Senti al Vinitaly cosa diceva, su cosa beve lui ogni giorno. Il vino è una cosa che si usa tutti i giorni, una cerimonia il vino, non è qualcosa di diverso dal vivere, è una cosa che ho sempre bevuto tutti i giorni. Te lo dicono anche i medici, che un bicchiere di vino al giorno fa bene al cuore. E poi dice anche: l'ultimatum che gli ha dato Zaia è una cosa che mi dà fastidio. Senti, Toscani. Risponda, già il nome, la parola ultimata mi dà fastidio. Ultimatum di cosa? Scusi, Così l'ha definito il governatore. Appunto. Non mi sento dalla parte del quello così colpevole di accettare un ultimatum, insomma. tu ti rendi conto? Ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo in guerra, l'ultimatum. L'ultimatum, come in guerra. Parlando? Come in guerra. Siamo qui, 800-24-00-24, per chiamarci. Torna da noi Marina Ripa di Meana. Ciao Marina, come stai? Io sto bene, voi come state? Bene, non c'è cara, male, bene. Non c'è male, molto carichi. Dove come sei, al solito. Nel castello a fare la manicure? Dove sei adesso? Dove sei, cara? Sono al castello, sì. Piena di manicure, di pedicure. Di tutto quello, di cure. Una bella vasca idromassaggio con tantissima tutto schiuma hollywoodiana. Ma tu, dite ancora di più. Ancora di più. Senti un attimo, io voglio sapere da te cosa ne pensi di questa crociata del Vaticano contro il crociata, però insomma questo attacco del Vaticano contro la chirurgia plastica, contro le donne rifatte, il burka di carne. Anche tu hai qualche burka di carne addosso, mi sembra, no, cara Marina? Beh, io penso che il Vaticano si dovrebbe soprattutto occupare di altre cose. Non sono queste le cose, sono dei moralismi eccessivi. Comunque sono pensasse ai suoi compari pedofili, pensasse a tante altre cose. Ci pensa, insomma, ci sono tanti altri motivi per interessarsi, ma questa è una cosa che non riguarda. Ognuno ha del proprio viso, del proprio corpo, delle proprie mani, del proprio, anche del proprio sedere, fa quello che vuole, insomma. Ma sì, uno si può anche rifare tutto, può anche diventare orrendo se lo vuole, no? Cioè... Io penso che soprattutto ognuno deve piacere a se stesso. Se ci sono delle persone che hanno questa necessità perché sono si sentono non si sentono adeguate, non si sentono a posto, non si sentono belle, non si sentono e hanno la necessità di cambiarsi, e ben per loro, anche se certe volte purtroppo produce dei mostri, produce qualcosa di orripilante. Io ricordo una persona che per riconoscerla la riconoscevo dai cani. E chi è? Cambiava ogni volta, i cani erano sempre gli stessi, ma la faccia cambiava ogni volta. E chi è questa? Mamma. Scusa Marina. Adesso non faccio nomi. Ah sì, facciamo i nomi. No, nomi non li faccio. Nelle vicinanze della così uscivo e ogni tanto non capivo se era la stessa, perché era talmente rifatta con i lifting, con i cambiamenti di immagine, che riconosceva perché i cani erano sempre lo stesso, ma lei cambiava. Ecco, questo. Beh, ci sono dei personaggi anche pubblici, per esempio io ogni tanto vedo la signora Versace ripresa dalle fotografie, eccetera, che siamo effettivamente ci sono dei personaggi pubblici che lasciano da pensare, però da quante volte ti sei rifatta tu? Aspetta, da qui non entriamo nei casi personali. No, entriamo. Comunque, come no? Aspetta, entriamo pure se vuoi. Da qui a farne un caso e dire che il burka, insomma, tutta questa è una vergogna. Beh, questa è qualcosa di, è un'intrusione in cose che non riguardano il Vaticano. Diciamo che il signor Ravasi e il Vaticano dovrebbero occuparsi di altre cose, queste sono, come dire, hanno pisciato fuori dal vaso. Hanno fatto una golden rain fuori dal vaso. Sai cos'è la golden rain? Ecco, quanto a me io... aspetta, adesso ci arriviamo. Tu sai cos'è la golden rain? Sì. No, non lo so. Amici miei, siamo al flop. Allora, sono sempre più convinto che la lettera di scuse che Olivero Toscani ha mandato al governatore del Veneto Zaia sulla sua frase "avere di tutti ubriaconi, atavicamente alcolizzati, eccetera eccetera" sia una roba ridicola. Bellissima lettera, ma non sono scuse, cioè non sono quello che pretendeva Zaia, cioè ma le è in scuse. Linea con tutta la storia, dai, una bella risata. Ho capito, ma siccome Zaia seriamente dal suo punto di vista chiede le scuse, si è parlato di popolo veneto, ma di cosa, cioè ho capito, ma quello. Ma scusa un attimo, se Zaia vuole le scuse ufficiali perché ha preso la cosa seriamente, e uno può discutere sul fatto che l'abbia presa seriamente, seriamente, chiede le scuse. Queste non sono scuse, dice no, certo. Io sono dentro di me. Ha fatto benissimo, ha ironizzato su tutta una vicenda che d'accordo, è grottesca ormai. Se fosse coerente, il governatore del Veneto e altre associazioni proseguirebbero con le querele, ma ti pare con i tribunali. I soldi dell'avvocatura dello Stato, io sono contrario ad andare in tribunale. No, ma se uno si ha detto questo, i soldi dell'avvocatura dello Stato lo facesse come reato cittadino. Scusa. Ma no, ma vabbè, no, Marina? Sì, caro. Tu dove ti sei rifatta? E anche Ripa, e anche Di Piano. No, ma dai, proprio così, omblè. Ma sì, dai, fai una confessione, fai una confessione. Quelli che ascoltano siano, ma io veramente vorrei rifarmi, guarda, vorrei molto rifarmi, purtroppo sono andata troppo sotto i ferri per altri motivi e l'idea di andarci pure per fare un lifting, insomma, c'ho un po', ma poi, sono titubante. Ma ce l'hai ancora i soldi per rifarti? C'è anche quel problema lì, in effetti. In effetti sì. Ma però dove ti sei ritoccata in tutta la tua vita fino adesso? Mi sono ritoccata, se proprio dobbiamo dirlo, diciamo, proprio sapere, sì. Mi sono rifatta il sottomento, cioè avevo una piega che non mi piaceva e quella me la sono una pieghettina nel sottomento. No, io figurati, se uno sta bene con se stesso, per me può fare quello che vuole. Ma insomma, questa polemica è assolutamente assurda, ragazzi. Uno, ma il sottomento poi che hai fatto? È importante che stia bene con se stesso. Certo, il sottomento poi che hai fatto? Non contare che ci sono dei casi di persone che sono veramente infelici per un brutto naso, per delle cose anche, insomma, che non sono sta. Vabbè, poco. Ma tu, oltre il sottomento, che cosa hai rifatto? Scusami. Ma io quello ho fatto. No, guarda, non c'ho motivo di negarlo. Le tette? Le tette? No, non me le sono mai rifatte, mai. Qualche botox? Infatti sarebbero da rifare. Sarebbero da rifare. Qualche botox così piccolino? Sì, vabbè, quelle piccole cose di quelle sì, ogni tanto uno se ne va e fa qualche. Ma dove li fai di solito i ritocchi? Sottomento? Ma non, adesso che vuoi che ti do l'indirizzo? No, dove? Perché magari uno entra una persona. Sai che vorrei togliermi le occhiaie. Bisogna andare da persone, da professionisti. Vabbè, quello sicuro, certo. Non è che uno vada prima che passa. Non cercare di economizzare, perché lì si corrono dei rischi. Quanto hai speso fino adesso? Anche le più piccole cose che tutte noi donne facciamo, andiamo da questo raccomando a chi mi ascolta, da professionisti esperti, anche disposti a spendere qualcosa in più, questo raccomando, perché andare a quei stregoni che dicono ti facciamo per poco, no, quello è pericoloso. Ma quanto hai speso per rifarti in tutto? Che ne so, nella tua vita, quanto hai speso? 10.000 euro, 20.000. Di più, ma adesso di più. Io non tengo conti per altre cose, purtroppo. Comunque, una persona che si vuole tenere bene con gli anni, come diceva Jane Fonda, che ha detto, dice, che cosa ci vuole? Ci vogliono molti soldi. Molti soldi, avrei speso 100.000 euro per rifarti. No, sì. Ma per carità, ma che cosa state dicendo? E che ne so io? Però la frase di Jane Fonda mi ha colpito. Lei, 78 anni, dice, lei signora, come si fa a stare così bene? Ci vogliono molti soldi. In effetti, se uno si vuole tenere bene, non si vuole dubbio, avere cura di se stesse, insomma, un po' di soldini ci vogliono. Ma comunque, in ogni caso, io dico, una donna ha tutto il diritto di rifarsi, di fare quello che vuole, senza giudizi moralistici, eccetera, eccetera. Certo, non c'è dubbio. Senti, ma lo sai che Marina, che Parenzo vorrebbe dare lavoro ai Rom creando delle cooperative per il recupero dei rifiuti? Beh, non io solo, anche l'assessore. Sì, anche un assessore a Roma, un assessore di Marino assessore. Vorrebbe dare ai Rom, che siccome sono esperti nel rovistare, nel cercare roba usata, eccetera, vorrebbe creare delle cooperative per la raccolta differenziata dei rifiuti, capito? Esatto. Ai Rom. Non per loro, comunque, insomma, io non penso che quello che mi è stato attribuito, che io butterei via nella spazzatura tutti i Rom, non è esattamente quello che mi hanno attribuito, ma mi hanno messo in bocca. Vabbè, poi vedremo. Trovo che ci sono dei Rom che sono, insomma, che c'è molto pericolo in alcuni di questi, così come ci sono altre persone molto brave, per vabbè, carità. Ma adesso... Però la più parte tendono a essere un po', ecco, ladri. Ecco, a essere pericolosi, certo, la maggior parte dei Rom sono ladri. La più parte, purtroppo, ai miei occhi rappresentano un pericolo. Sono delinquenti, diciamo, la maggior parte. Non ho detto questo. Vabbè, non avere paura del giudice adesso. Sono un pericolo. Quando li vedo, giro largo, ecco. Giri largo, scappi. Sì, naturalmente. Preferirei non avere incontrarle, non avere sotto casa uno spolo di Rom. Preferiresti non avere in mezzo alle scatole Rom, diciamola tutta. No, insomma, diciamo la verità tutta, è quando se mi trovo su un autobus con un Rom, che ci sono 5 Rom, scappi, e io scendi. Mi tengo ben strette le manità. Scendi dall'autobus, diciamo. No? Non ti dico che scendo, però faccio attenzione, ecco, scendere no. Devo dire che sull'autobus ci vado molto poco, perché io cammino a piedi. Oppure vai col taxi. Oppure col taxi. Oppure coi piedi. Senti, ma una volta tua figlia ha detto che eri tutta rifatta. No, non è esatto. Mia figlia mi ha dato inferti vari colpetti nella vita, ma non ha detto questo. Beh, ha detto che ci sono molte attrici, ha fatto nomi, una cosa poco simpatica, di donne rifatte. La intervistatrice ha detto anche sua madre, lei non ha detto né sì né ma, no. Insomma, non ha risposto. Comunque io silenzio ha senso. I figli sono pezzi e cori, come si dice. Beh, però i figli possono pure dare delle belle coltellate, delle belle sono pezzi e cori. Delle belle coltellatone. Non gli danno i figli, figli dalle coltellate. Senti, ma tu consideri un cacciatore un assassino? Uno che caccia, che va a caccia, lo consideri proprio un assassino o no? Beh, adesso non esageriamo, non me lo mettiamo alla stregua dell'assassino, però insomma, una persona micidiale sì. Micidiale sì, non lo vorrei avere insomma a tavola con me. Certo, non avresti... lo inviterei a cena, no. Non inviterei, ma non mangi carne, no. Tu, non ho capito? Non la bistecchina? Carne. Pure lei non mangia carne. Anche mamma. La bistecchina? Non mangio carne, non Marco Buccio. Però le scarpe... Però sono le scarpe non è che ce le hai di paglia, le scarpe, ce le hai. Beh, guarda, ti posso dire, la più parte delle scarpe le faccio attenzione anche a questo, però naturalmente sai, un conto è il superfluo, un conto è, ecco, come le pellicce, uno non c'ha bisogno di usare le pellicce, vero? Beh, non... quella è certo. Senti, un'ultima cosa ti voglio chiedere, ma la tua amica Catherine Spack se n'è andata via dall'isola perché dice che non si voleva buttare dalla cosa, troppa paura, ma che c'è andata a fare all'isola? All'isola dei famosi. Questo non lo so, sai, tante volte uno non si rende conto partendo, non si rende conto di, ma di quanto dai, la su, cosa puoi sostituirla tu. Ma tu andresti all'isola o no? Sì. Ma neanche per tutto l'oro del mondo. Beh, voglio beh, se ti danno, voglio vedere se ti danno 200.000 euro, 300.000 euro. Volo ci vai, dai. Sì, subito, a piedi. Beh, tanto vai. Mi diedero per la fattoria, ti dico. Ma adesso se ti danno 200.000 euro per andare all'isola, ci spalla un romo, ci vai. Neanche per se mi danno un miliardo. No, guarda. Ma guarda che lì c'è Rocco, c'è Rocco Siffredi all'isola. Beh, Rocco preferisco vederlo. Ha girato l'angolo quelli. Come, scusa? Dico per Rocco preferisco vederlo a Roma che lì. Ah, ma perché ti sei fatta pure Rocco qualche volta, no? Senti. E che ne so, magari sarebbe veramente strepitoso se ti fossi fatta Rocco, sarebbe stupendo. Mamma mia, ragazzi, ma andate sempre su un pecoreccio in modo proprio. Oddio, come mi arrapi, guarda, mi arrapi da morire. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma guarda, che siete veramente strani. Un uomo, una donna, so che se sia uomo o donna c'ha la barba, e quindi, ma guarda che lì la cosa è molto complicata, perché sono i trans, perché ci sono tante famiglie, come lei sa, di pinguini trans, poi quelli che cambiano sesso più volte. No! Cioè, allora, ti spiego. Il senatore del nuovo centrodestra Carlo Giovanardi alla Zanzara sul caso di Riccardo Magherini. Riccardo Magherini morto a marzo quando era nelle mani della polizia e di alcuni volontari della Croce Rossa Italiana, era sicuramente, aveva usato sostanze stupefacenti. Sono stati rinviati a giudizio 4 carabinieri e 3 volontari della Croce Rossa Italiana. Ma Giovanardi è sicuro. Clouseau, è morto, Giovanardi Clouseau. È morto perché era strafatto Derrick. Di coca. Se uno avesse la competenza di leggere la perizia dell'accusa, leggerebbe che sono centinaia di casi all'anno di una situazione che si chiama Excited Delirium Syndrome, che è esattamente il caso di Mogherini, per cui per due, uno che è strafatto di coca, che incomincia a dare di matto, a insultare la gente e che poi alla fine di questa per ipotermia ha un collasso e muore. Perché ha ingerito droga, è morto per una sindrome che in letteratura è conosciuta con centinaia di casi. Siete voi che volete fare in modo che quando i carabinieri o quando i medici corrono a difendere i cittadini che da un'ora e mezzo stavano subendo violenze di tutti i tipi, voi volete che i carabinieri e i medici, invece di fermare chi aggredisce la gente, se ne siano alla larga sulla base delle campagne mediatiche e di quelli che vanno a criminalizzare i carabinieri e a criminalizzare i medici, cioè i soccorritori, per principio. A proposito di Giovanardi, c'è da citare un'altra cosa, una bellissima frase che ha utilizzato ieri Giovanardi, cioè Renzi ci bellissimo fa... ho sentito molto poco ieri. No, io, ma lascia perdere la vicenda Magherini, no, più tardi avremo il fratello di Magherini che ci dirà la sua, eccetera. Bene, però bene. Giovanardi dice: Renzi ci fa la pipì in testa, cioè proprio la qualcuno mi dice che è la golden shower in realtà. Golden share, conoscevo io. No, la golden share è un'altra cosa. Sì, quella conosco. La pipì in testa di Renzi al nuovo centrodestra, cioè ad Alfano. Se è una gli piace così. No, ma è una bellissima immagine. Ma perché a te non piace la golden? No, francamente. Cioè, adesso tu sei bello strano. Né riceverla né prenderla. Fai passare per matto me. Ti piace che le tue donne siano delle zoccole. Lecchi i piedi. Ti piace farti pisciare in testa. Amico mio, se tra i due lo strano sono io, in che mondo viviamo? Se lo strano sono io, poi. Ti prego, suggeriamo un nuovo bel sondaggio agli amici di questo quotidiano che si chiama Libero. Libero. Che c'hai contro Libero questo adesso? Questo quotidiano che c'ha anche quel cavallo alato, perché vola via pure lui. Ma che cosa? Se ne va come i lettori che volano via dal quotidiano. Dai, su, come comunque i lettori suggeriamo. Che ma via, hanno scritto via. Che hai fatto un sacco di flop, tra l'altro. Va bene, e risponderò punto su punto agli amici del quotidiano Libero che hanno scritto qualche castronata, ma io non me la prendo. E col sorriso sulle labbra suggerisco un nuovo sondaggio agli amici del quotidiano Libero. Anche il cavallo del loro quotidiano vola via con le ali, anche il cavallo. E il sondaggio è questo: tra Cruciani e Parenzo, chi è quello normale? Uno, Cruciani sostiene che le donne devono essere delle zoccole, piace leccare i piedi e gli piace farsi fare la pipì in testa. Ma non è vero. Chi è normale tra i due? Amici di Libero, fate questo sondaggio, vi prego. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Appunto. Giovanardi e la pipì in testa di Renzi ad Alfano. Poiché sono due giorni che Matteo Renzi ci fa pipì in testa, nel senso che ci offende in tutte le maniere possibili e immaginabili, la mia proposta era molto semplice, che i nostri ministri restituiscono le deleghe al capo dello Stato, dopodiché il signor Matteo Renzi non è più Presidente del Consiglio, si fa la crisi. Poi se Matteo Renzi trova una maggioranza continua, se no si va alle elezioni col vecchio sistema. E now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Dopo la BCE anche la Germania dura con la Grecia. Schäuble al ministro Varoufakis: fate ciò che dice la troica. Tsipras: basta prediche, ma la borsa di Atene affonda. In Italia la crescita è arrivata ma è ancora fragile, dicono le ultime previsioni europee. Attenzione al debito, bene il deficit, la disoccupazione resta alta. Forza Italia, sulle riforme votiamo solo quello che ci convince. Partito sempre più diviso, Fitto, tutto sbagliato. Tensioni con il governo sulle frequenze TV. Il PD, abbiamo i numeri anche da soli. Serracchiani: Forza Italia necessaria in passato, ora non più. Possibile l'aiuto di altre forze, rinsaldato l'asse con Alfano. Raggiunta l'intesa sulle norme anticorruzione che andranno presto in aula. Il ministro Orlando: inasperite le pene per il falso in bilancio e si procederà d'ufficio. Al nord tanta neve, anche in pianura, violente piogge al centro e al sud. Sull'Italia è arrivata Big Snow. Disagi e file in autostrada, fermati i tir. E su un sito jihadista il primo manifesto sulla donna nello Stato Islamico. A 9 anni può sposarsi ma non potrà lavorare. A Raqqa l'orrore delle esecuzioni sui maxi schermi. Sentire subito gli ascoltatori, però prima voglio dirti una cosa, Parenzo. Allora, è partita l'operazione boicottate Conchita Wurst, il travestito, trans, non so quello che è, la signora Conchita Wurst, il barbuto che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2014 e che sarà a Sanremo, dunque una bellissima scelta da parte di Carlo Conti. È partito il tentativo di boicottaggio, lo sai da parte di chi? Addirittura contestano pure la presenza, contestano la presenza pure di Mauro Coruzzi, cioè di Platinette. Contestano pure Platinette. Chissà perché contestano la presenza di Platinette e di Conchita Wurst. L'associazione di telespettatori cattolici, l'AIART, il signor Luca Borgomeo. Ora io dico una cosa: perché esiste l'associazione di telespettatori cattolici? Non esistono i telespettatori dei cattolici. Non esistono, esistono i telespettatori e non rappresentano nessuno. E anche se sono cattolici, non sono rappresentati da questa associazione dell'AIRT, il signor Borgomeo, che per farsi pubblicità dice che è uno scandalo il fatto che ci sia Concita Wurst pagata 120.000 euro, quelli sono cazzi del Festival di Sanremo, e poi anche Mauro Coruzzi, conosciuto al pubblico come Platinette, che ha già dichiarato che una sera si presenterà vestito da uomo e una sera da donna con sorpresa finale. Si ha l'impressione che l'azienda di Stato abbia dimenticato che il festival è nato come programma per tutta la famiglia, ma rappresenta più la famiglia Coruzzi di quanto la rappresenti tu, Borgomeo. Oh, Fernando Torino, Fernando. Sì, sì, eccomi Cruciani, mi senti? Dimmi, dimmi. Ascolta, ascolta Cruciani, io sono veneto al 100%, ti dico una cosa definitiva. Toscani ha perfettamente ragione. Cioè? I veneti, la maggioranza dei veneti, perché non si può generalizzare, sono avvinazzati, non ubriaconi, sono avvinazzati, ombre, ombrette, spritz, specialmente nella provincia. Cioè tu dici, sono tutti ubriachi, oggi sono da pranzo con una persona. Ubriachi, non si può dire ubriachi, avvinazzati. Avvinazzati. Tu dici che comunque non fa molta differenza con quello che ha detto Toscani, dire avvinazzati. Oggi sono andato a pranzo con una persona. Non deve chiedere scusa. Ma infatti secondo me, vabbè, ma quello è Toscani, ha fatto però una polemica. Cioè, avvinazzati, hai capito? Ma infatti secondo me, oggi sono andato a pranzo con una persona, Parenzo, e mi ha detto, ma guarda che Toscani ha ragione, io ho frequentato il Veneto per un sacco di tempo. Esatto. Ed erano sempre ubriachi. Ma sempre. Adesso questo mi sembra. No, questo non ma le persone credo. Che frequentava no, lui. Le persone che frequentava lui. Sono brilli perché cominciano al mattino, hai capito? Beh, adesso non è che tutti cominciano al mattino. Adesso è questo l'errore di pensare che tutti si ubriacano a partire dalle 8 di mattina. Dai, no, su. non tutti. Però dire ma che una in gran generale. Parte, specialmente nella provincia, nella campagna veneta, hai capito? E queste cose Parenzo le sa bene. Non so proprio bene niente. Siccome sono veneto, so che è una stupidità. Ascolta, generalizzare così, insomma. No, ascolta, lasciami. Io lasciami amo il vino dire. E bevo, bevo. Io sono nato e cresciuto nella provincia a Quarto d'Altino, no? Nella campagna veneta. Sì, come okay. Ti voglio citare un piccolo episodio. Tu pensa che nella campagna, mia nonna in campagna, quando arrivavano i contadini, gli offriva la scodella di latte col vino dentro. Sì, ma c'è una grande tradizione da questo punto di vista. Io credo che Toscani volesse dire questo. Però siccome stava attaccando i leghisti, ha messo nel calderone pure questa roba, prendendosela in generale coi veneti, perché lui l'ha detto anche in modo dispregiativo. Non è che l'ha detto per dire beh, stava hanno una grande tradizione di vino. Ma stava scherzando. Ma io appoggio Toscani sempre al 100%. E secondo me se chiede scusa è una follia. Però c'è un fondo di verità. Infatti non ha chiesto scusa. E se la regione Veneto è coerente con quello che ha detto ieri il governatore Zaia, dovrebbe andare fino in fondo in tribunale. Sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Allora ragazzi, devo dire la verità, è successa una cosa a Palermo, al carcere del Luciardone, no? Hanno allestito uno spettacolo per i detenuti. Sapete che io non sono certamente uno tenero nei confronti di chi va in carcere. Secondo me le pene in Italia sono troppo morbide, eccetera eccetera. Però che cosa hanno fatto? Hanno allestito uno spettacolo e dentro c'era un altro spettacolo di burlesque. Sì. Uno spettacolo di burlesque. Io non capisco perché le guardie penitenziarie si sono incazzate dicendo che è uno scandalo, che loro sono trattati male, che fanno le guardie penitenziarie. Cioè, col burlesque. Ma no, perché hanno detto che hanno allestito questo spettacolo e sembrava un hotel a 5 stelle e invece le condizioni degli agenti di polizia penitenziaria, il sindacato si è inalberato, eccetera. Hanno fatto benissimo a fare questo spettacolo. Qual è il problema di fare uno spettacolo? Adesso non è che deve essere la Cayenna il carcere, Non è che uno deve spaccare le pietre come se fosse a Sing Sing o come se fosse all'isola là di Papillon, dove era, non mi ricordo. Bravo, nella, cosa è successo? Ma nella Guyana francese. Hai bevuto un po' di garantismo? No, hanno fatto uno spettacolo di burlesque, certo. Non era solo burlesque, per i carcerati che si sono un po' arrapati sicuramente, va benissimo, no, per carità, questo è, ma va bene, ottimo, stupendo, non capisco perché le guardie carcerarie si arrabbiano dicendo che gli agenti indignati perché quelli sembra di stare in un hotel a 5 stelle mentre noi viviamo e lavoriamo in condizioni penose, sbagliato, Maria Gabriella, Perugia. Pronto? Ciao cara, dimmi. Allora, Cruciani, se io dico Hotel Brufani, tu cosa dici? Oddio, Maria Gabriella, sì, ogni anno mi viene a rompere le balle lì a Brufani. Perugia! a Brufania, cioè dimmi cara, dimmi. Io però, sì, prima di parlare di Olivero Toscani, sì, voglio dirvi a te e a David Parenzo, sì, che sì, voglio farvi fare un film, sì, ho tu, un amico regista, sì, vabbè, intitolato Addenti a quei due. Vabbè, d'accordo, questo va è... Bene, facciamolo, Maria Gabriella, dai, su. Lo faresti? Ma quanto hai bevuto, certo, stasera, Maria? No, dai, su, e dai, forza. Allora, dai, no, io vi vedrei insieme perché fate spettacolo. Sì, magari portiamo pure Razzi. Vabbè, che volevi dire su Toscani? Dai, dimmi subito. Io volevo dire che hai ragione tu poco fa quando hai detto che gli davano, qualcuno gli dava ragione, no? È vero che sono ubriaconi, però lui l'ha detto in modo dispregiativo. Bisogna vedere come si dicono le cose. Sì, certo, ma quello che ho detto prima io l'ha detto in maniera... L'hai detto fare una critica, non è che ha voluto esaltare, diciamo, l'uso dell'alcol o la produzione, bravo, di vino dei Veneti. L'ha detto in maniera un po' così sprezzante. Infatti, quindi, l'unico errore è questo, però è Toscani, ragazzi. Cioè, per carità, va benissimo, è un caso che ci ha fatto, no... ci ha dato grande risalto, non ne abbiamo bisogno per fortuna, però sì, ci fa piacere essere citati, ci fa piacere che la Zanzara sia diventata, come dire, la notizia, una notizia venuta da qui, sia diventata la prima notizia in Veneto da 4-5 giorni, diciamo, no, la verità, abbia smosso poi... le acque, il governatore, i politici, ciao Maria Gabriella, ti devo salutare, Giuseppe, provincia di Chieti, dai Giuseppe. Cruciani. Oddio, questo rompicoglioni. Ma oggi stasera, sì, vi siete concentrati tutti insieme. Il solito da Chieti. Ascolta, Cruciani. Domenica che è successo? No? Oggi è giovedì, Giuseppe. È giovedì. Non potevo chiamare. Si è fatto mettere KO da quella comunista. Sì, mi si è fatto mettere KO dalla comunista. Sì, mi sono fatto mettere KO dalla comunista. Balbettavo. Sì, balbettavo. Va bene, con la sciarpa al collo, il look dei Rolling Stones. Però ha fatto una figuraccia, vabbè, ho fatto una figuraccia, va bene Giuseppe, no, che ti devo fare? Che è successo? Intanto che è successo? No, che è successo? Dai, su Giuseppe, dai, smetti. Oh, Giuseppe, mi ha deluso veramente. Vabbè. Mi hai deluso, le posso dare del tuo? Ma o no? Fai quello che ti pare, basta che ti togli dai coglioni, allora, dai, su. Mi hai deluso, Cruciani, veramente. E mo ti dico pure questo, stavamo, dimmi, mangiando, sì, al Tinello. Ma quando? Al Tinello? Domenica sera. Al Tinello, no? Sì. Ma che, sì, me ne frega di quello che stavi facendo domenica sera? Oi, Crucia, no, non ti incazzare, meno male, bravo, che te lo dici, dai, ascolta, dai. Appena mia moglie ha visto a te, sì, che ha cambiato canale, sono andato al salone a vedere perché... Secondo me si è arrapata tua moglie appena vista. No, sì, no, allora sicuro, non ti ripeto quello che hai detto, sicuro. L'ho sentito per radio, il super cretino, no? I super idioti che lo sanno, no? Sì, quando ti, sì, ha vista... E ha confermato, diciamo, quello che aveva pensato. Quello che aveva pensato. Cioè, adesso tu hai chiamato per raccontarci che cosa, no, facevi domenica nel Tinella, nel Tinella, e che tua moglie ti ha detto che sono un cretino e tu sei andato di là in salone. Ah, no, baga. Parenzo, di qualcosa, ti prego, difendimi. Ma cosa vuoi? È un amico volta, tuo, difendimi, questo qua, è un amico tuo. Cioè, un'altra cosa, me la fai dire? Dai, dimmi. Me la fai dire? Sì, tanto allora, ormai, siccome intanto mi saluti quello là che si fa le canne ed affini, no? Che mi voleva querelare. Sto tremando dalla paura. Guarda, guarda che è tanto che non faccio le canne, purtroppo. Vabbè, dai, Giuseppe, forza, dai, forza. Continua. Allora, siccome mio figlio si sta laureando. E chi se ne frega? Ma perché dovrebbe interessare tutta questa roba della tua famiglia? Sta facendo la tesi, una tesi in sociologia. Bravo. Sì, dimmi. Sulla prostituzione, sul, sì, caso umano, che c'è in casa, dovrebbe farla su di te, su la tesi. Di te deve farla. Puttanesimo, no, cioè, allora mi ha chiesto di chiedere se gli puoi dare dei consigli, cioè, perché pare che pure tu abbia fatto una tesi sul puttanesimo. No, io non ho fatto nessuna tesi sul puttanesimo, purtroppo non l'ho fatta, avrei voluto farla. Invece l'ho fatta su una cosa molto più seria, quando pensavo di studiare altre cose nella vita, capito? Sentiero lungo. Comunque, datti una calmata, dai. Tuo figlio dovrebbe fare una tesi sul tuo cervello. L'analisi del cervello di mio padre. Cosa c'è nel cervello? Farina, crusca, c'è, crusca. Dai, su, ciao, e ciao. Continua a fare le canne, ciao, da fine. Ciao. Pronto? Mauro? Mauro? Sì. Sono Giuseppe, Cruciani, ciao. Cruciani? Cruciani, sì, sono sì, io. Sì, quelli della Zanzara. Che bravo. Vuoi? Che per... porti la malaria, rompi coglioni che non siete altri. Vi ma fate consiglio di famiglia prima di chiamarmi. Perché dici? Quale consiglio malaria? Di famiglia? Perché? Ma che consiglio di famiglia? Devi, quando mi chiamate, dovete rispondere delle proprie. Non dire, ma Corona ha detto così l'altra volta, non mi avete più chiamato sul Papa. Che ha solo detto, non ha detto di usare preservativo, ha detto di scopare meno. Dici? Ma ecco, ho capito. Dico, ma avete eclissato. Ma che eclissato? Ma che eclissato? Ma figurati qua. Li fate vinculare da Toscani. Senti una cosa, no, ti voglio chiedere, ma hai sentito Toscani quello che ha detto su... Certo che ho seguito i giornali, ma come no, ho sentito. E allora che dici, ha ragione lui o no? No, non ha ragione, perché fare di ogni erba un fascio, non ha ragione. E poi l'ha detto in una maniera brutale, volgare, dire che tutti sono alcolizzati, figli di alcolizzati, col DNA di alcolizzati. Non è vero. Ma era una battuta. E poi poteva dirlo in maniera più elegante, dire ogni tanto quando le cose vanno bene. Era una battuta. No, non una battuta del cazzo, le sue foto sono battute. Era una battuta, amico mio. Cagare zoccola di Cruciani. No, sono è Parenzo. Beh, comunque. Ho visto che dire zoccola è una donna un complimento. Bravo. Dico, guarda che ti vengo lì, ti faccio fuori di. Ma scusa un attimo, ma troviamo quello. Ma voi il mio giudizio su Toscani è un cialtrone maleducato, arrogante, arricchitosi con foto del cazzo e soprattutto piazzato in quel del Veneto. Ma va, ma è un genio della comunicazione, ma Mauro, genio dai. Della comunicazione, vai a cagare, ma... tu è genio della comunicazione, ma volete proprio provocarmi? Ma cosa c'entra? Fa il suo lavoro, bene, fa delle foto. Quelle foto lì le fai i bambini con gli pong. E falle tu allora quelle foto, se sai farle. Falle tu le foto, quello è un genio. Ma non hai mai visto le foto? Le faccio di legno quelle foto lì, con la scultura. Aspetta. E che uno in Italia si dice bello bello, che vuol dire eccolo il genio. Scusa. Ho fatto foto belle. Mauro. O di Biasi. O compagnia Bedi Biasi, dai. Non Mauro, allontana un attimo perché sennò si sente un rumore strano quando parli. Allontana la. Sto fumando un toscano, non fa neanche rumore il fumo. No, perché parli troppo forte, evidentemente fa. Perché mi fate incazzare? E lo so. Ma che ti facciamo incazzare. Ma Toscani è un genio, io dico che è un non esiste come artista. E ma anche no? Un cialtrone a dire male dei veneti. Ma non dice male dei veneti ancora con sta storia, dai. Ha fatto una provocazione. Ha fatto una battuta, una provocazione. Ma non vuoi convincermi, Cruciani, che ha fatto una provocazione? Se no è tutto scusabile, è tutto giustificabile. Io spacco i coglioni con un calcio, è una battuta di coglioni, no. No, ma scusa un attimo, Mauro, però c'è una cosa fondamentale. Perché non ti piacciono le foto di Toscani? Che te... Perché è un arrogante, spocchioso, crede di essere... Ascoltami bene, Zoccolina, ascoltami ma bene. Ma ha fatto grandi cose! Ascoltami bene, io l'ho sentito in una trasmissione che ascolto la radio su Nella Baita, sì. In cui diceva in una maniera spocchiosa, arrogante, che la natura non va difesa, che è una cazzata, che è una cagata, che la natura è cattiva, che va lasciata lì, che va distrutta. Questo è Toscani! Vabbè, ma io però sono... Si fa le vigne in Toscana per vendere il vinello. Ah, mandatelo a cagare a nome ma che mio. Male c'è a fare le ma vigne sono d'accordo Toscana, con Toscani. Ma che allora parla male della natura e poi coltiva le vigne? Io sono d'accordo con Toscani. Che le vigne, destra il cazzo. Vabbè, no, comunque, che fine ha fatto il tuo cellulare che c'avevi prima? Ecco perché si sente così male. Il cellulare ce l'ho uno, non l'ho spaccato con la massa. L'hai spaccato? Con la massa. Cioè? Ammazzate. E perché l'hai spaccato? Perché c'era qualcuno che mi disturbava, ho comprato uno nuovo. Ma perché l'hai spaccato? Scusa, non ho capito. Ero stufo di essere rintracciato, è un colpo di follia. Ma con chi, ce l'avevi, scusa? Ce l'avevo con me e con questo giro di telefonate. Poi ho scoperto che senza il cellulare non posso stare e l'ho ripreso nuovo. La modernità. Ma con chi è che hai litigato? Tua moglie? Con i figli? Cosa hai fatto? No, con la moglie non litigo più, sono arrivato al silenzio, che è il passo successivo. Uno che litiga non ha capito un cazzo. Vabbè, tanto un libro di Edouard Bove, L'uomo che tace. Al silenzio, tanto non scopri nemmeno più, che te frega. No, ma ho dato, ho già dato io, sai. E la moglie come fa? Scoperà altrove? Non so come fa, perché io la vedo pochissimo. Ognuno vive le proprie vite, giusto, quello che resta. Giusto, bravo. Dunque, hai spaccato il telefonino, chissà per quale motivo, perché non volevi più sentire nessuno. E poi ho scoperto che mi serve. Ma come l'hai spaccato sto telefonino? Spiegami. L'ho messo sul cioccolo, gli ho dato con la mazza. con la mazza tu sul ciocco. Non sai cos'è la mazza di ferro. Io qualche volta devo venirti a trovare, veramente. Io, secondo me non venirmi a tiro, altro che trovare, non mi sono mica perso io. Non esco vivo se vengo da te, non esco. No, no, devo venire con mia figlia, devo venire con mia figlia, così sono protetto, No, no, adesso faccio battute, ma io non ho mai alzato le mani, anzi devo fargli un portamatite alla tua bimba che gliel'ho promesso a Milano. Brava, bravo, grazie. E quindi ho la memoria buona su queste cose. Va bene, ti abbraccio, un bacio, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Maria, provincia di Pavia. Vai Maria, dimmi. Sì, buonasera Cruciani. Ciao, dimmi, dimmi. Buonasera da Apparenzo pure. Dai, vai, dimmi. Ciao. Volevo dirti Cruciani, ieri sera mi sono sentito troppo offesa, troppo. Perché? Dimmi, perché cara, perché? Per le parolacce alle donne, chiamare zoccola alle donne. No, ma io non hai capito ancora. Secondo me non è una parolaccia, capito? No. Cioè Maria, secondo me non è una parolaccia, questo è il punto. Viene interpretato come una parolaccia. Ma te credo. Ma secondo me non lo è, questo è il punto. Secondo me non lo è. Cruciani, mi è dispiaciuto un po' tanto. Ho capito, ma cara Maria, ma se 3 anni è più che ti ascolto. Ma se io ti dico, che secondo me non è una parolaccia, è la mia interpretazione. Poi non è che ti sto dicendo che tu sei così. Deve fare i complimenti alle donne, deve essere gentile, però. Ma ho capito, ma sto dicendo semplicemente che per me non è una parolaccia. Siccome se io dico zoccola non è una parolaccia, se qualcuno se la prende gli spiego, guarda che per me non è una parolaccia, e spiego i motivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, capito Maria? Cioè a me mi sembrava... Vabbè, ma tu sei una di una generazione... Quanti anni hai tu Maria, scusami? C'ho 62, quindi non mi scandalizzo di questa Non ti scandalizzi, però... no, ma sei una ragazzina, dai, sei una ragazzina, 62 anni... dai... 62 anni, ho 40 anni di matrimonio, alle spalle sono felicemente con 3 figli, quindi... 40 anni di matrimonio, sempre con lo stesso uomo, mamma mia che noia. Sì, sì, veramente, Cruciani. Beh, è una tragedia, cara Maria. No, per me no, io sono felice, c'ho 3 figli... vabbè, se sei felice... Se tu sei felice, no, siamo felici. Ve lo auguro, ho detto. Vabbè. Non è. Cioè, volevo dire, ci sono tanti argomenti. Io 3 anni fa ascoltavo la Zanzara, che veramente c'erano tante cose belle da ascoltare. Anche adesso ci sono tante cose belle, anche sì, ci hai chiamato. Che non se ne può più. Sì, no, io ascoltavo Parenza da a Tele Lombardia, che era un giornalista, veramente adesso è diventato proprio un disgraziato, un povero Cristo. Adesso non un so disgraziato, se lo questo magari no. Un disgraziato non è bello da dire, è diventato un disgraziato. Ma guarda, vabbè, ma ogni tanto essere disgraziati è bello, dai. Ma disgraziato sei tu. Ma va bene disgraziato. Essere disgraziati. Ma dai. Tu sei disgraziato. Guarda, non volevo offendere. No, dire... ma figuriamoci. Maria, ti abbraccio fortissimo. Ciao, ti abbraccio. Sì. Ciao, ciao. Ciao, Cruciani, ciao. Ciao. Antonio, dai! Ciao Parenzo, senti, io ti volevo dire, quel signore degli ascoltatori cattolici, io non lo conosco, non so chi sia, non me ne frega niente, però secondo me ha ragione. Se io quel Concita, Wurst e Platinette non li voglio vedere a Sanremo, mi danno fastidio. Anche ma perché? Ma che ti hanno fatto? Che cosa ti hanno fatto? Non mi hanno fatto niente, ma mi sembra dei fenomeni di baraccone. Secondo me il presentatore Conti li presenta come dei fenomeni da baraccone, dovrebbero rifiutarsi. Ma è uno spettacolo, convegno. Vabbè, onestamente a me danno fastidio, mi danno anche Patinet quando parlava la mattina, cambia canale. Mi dava fastidio con quella voce. Sì, e basta che cambi canale. Però uno può esprimere la sua opinione. Beh, e poi un'altra cosa, tu, secondo me esiste un po' la lobby dei gay. No, che adesso vogliono sposarsi, vogliono col vestito da matrimonio, vogliono adottare i figli solo perché hanno il modello borghese, sono più borghesi di noi borghesi, hanno questo modello in vabbè, ma lascia perdere adesso, perché ti dà fastidio che a Sanremo vadano con Cita più o l'altro, perché? Ma perché proprio a guardarlo mi dà fastidio una donna con la barba, a me fa impressione. Vabbè, ma cambia canale, te ne fotti, dai, su. Ma perché ti dà fastidio? Ma perché ti dà fastidio? Non ho capito. Perché è un modo di attirare l'attenzione, proprio come la donna cannone, l'uomo con due teste, la donna con la barba. Se a voi piace sta roba qua. Ma è una che canta, ha vinto una gara internazionale. Ma che canta, ma che ha vinto? Ha vinto perché è una donna con la barba. Ha vinto perché è un fenomeno da baraccone, secondo te? Sì, ha vinto per quello, mica che ha vinto perché è una brava cantante. Dai, che ne sai te? Su. E poi, vabbè, se... No, non è mio. Mi piace sta roba, guardatevela, ma c'ha ragione il signore del Sanremo. È come, poi loro vogliono andare a Sanremo come il gay che si vuole sposare col vestito bello, ma se hanno una vita alternativa, si vivessero la loro vita alternativa senza rompere le scatole a noi. Ho capito, Antonio, ma lascia perdere adesso lo sposarsi, non sposarsi, cioè, questo non è l'argomento di Sanremo. Vanno lì a cantare. Platinette ogni tanto canta, è un uomo di spettacolo, e quest'altra ha vinto una. Certo, io non nego che ci sia una scelta anche come dire estetica, tra virgolette, no? Ci sia la volontà di stupire. Comunque questa Concita Wurst ha vinto un premio internazionale europeo di canzoni. Platinette è un uomo di spettacolo, qual è il problema? Perché sono omosessuali, proci, travestiti, quello che è, perché una si veste da uomo. Ho capito, si fa spettacolo anche con questa cosa. Certo, dovrebbe essere più esplicito, magari dovrebbe dire: Carlo Conti, le invito anche per una, perché uno ha una donna con la barba, e l'altra perché si traveste da donna, è un uomo che si traveste da donna. È chiaro che le invitano anche per quelli, spero che sia anche così, cioè, o no? Vabbè, allora per fare i soldi andare in televisione mi metto le tette, così magari mi... Sì, ma se ci vai tu non ho da nessuno, capito? Se lo fai tu non devi avere anche un talento, esatto, qualche altra cosa. Vabbè, ciao. Ma è con noi un personaggio che per primo ha criticato il neo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era il 1990. Buttiglione? No. Era il 1990. E vergò questa dichiarazione. Vergò questa dichiarazione all'ANSA. 6 luglio 1990. Sergio Mattarella dovrebbe preoccuparsi dell'informazione sessuale nelle scuole invece di occuparsi del carattere educativo dei concerti rock. Era Ilona Staller. Ciao Ilona! Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Ma te lo ricordi questo episodio, Ilona? Ma guarda chi si è andata a ripescare. Però allora era il ministro dell'istruzione, ti ricordi? E come no, fece una polemica sui concerti di Madonna, ma anche sulle minigonne, sulle donne con abiti troppo succinti a scuola, no? Ti ricordi? Sì, che questo è un problema che... Io non è che voglio criticare lui, semplicemente vorrei dire che intanto gli faccio auguri che è il nuovo presidente della Repubblica. Sì. Ma come lo chiami? Cicciolino presidente, come dici sempre tu? Cicciolino presidente, vai! Dai, chiamalo Cicciolino presidente. No, lei chiama sempre tutti Cicciolino. Intanto io penso che avrà un pochettino, visto che io ormai sono tanti anni che il comune senso del pudore io ho spostato, per cui anche lui penso che ormai è cambiato. Dice che è cambiato adesso? È cambiato, sì, ma non lo so se lui è cambiato. E che ne sappiamo che è cambiato da questo punto di vista? Però speriamo che lui ormai non pensi più di tanto alle minigonne e ai shorts delle ragazze. Anche perché nel 1990 forse era un'altra cosa rispetto ad adesso. Sì, erano tempi diversi. Che ma noi chiamiamolo, chiamiamolo Cicciolino presidente anche lui. Cicciolino presidente, vai. Bene, spero che tu hai cambiato idea sulle minigonne e sui concerti. Anche lei, magari, Ma io per esempio mi ricordo che quando è venuto a fare il concerto Madonna, sì, ma io non ho trovato niente di osceno. Certo, Madonna è un personaggio come me molto trasgressivo. Vabbè, ma all'epoca, ma era nel 1990, Mattarella è un signore democristiano, molto legato alla Chiesa, fece una polemica sul concerto di Madonna, per carità. Ci sta. Io anche perché mi ricordo che Madonna mi pare che abbia messo un grande grande crocifisso, sì, se ricordo, certo, bene, si è fatto crocifizzare cantando Like a Virgin, no? Sì, ma insomma, ti ricordi questa polemica? Tu come ti rispose? Hai fatto una dichiarazione in Parlamento? Cosa io hai fatto? Ho fatto sì, al Parlamento, però non è, adesso se me lo chiedi cosa mi ha risposto, non ti si fidava all'epoca, non è che... Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. Sono condannato ad ascoltarvi, sono costretto proprio causa forza maggiore a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione, non posso farne meno, sono proprio condannato. Staller fece una polemica nel 1990 con il neo presidente Sergio Mattarella. Beh, una polemica, caro Parenzo, sul moralismo, sul bigottismo di Mattarella. Ilona Staller ci diceva prima: speriamo che sia cambiato da questo punto di vista il presidente della Regione. Ma sai, secondo me ormai, oggi come oggi, i tempi sono cambiati e sono più che convinto che il suo compito non sarà certamente di guardare le minigonne delle ragazze. Beh, speriamo che... perché se no sarebbe un po' grave la cosa. Bensì, vedere che il paese cresca, che ci siano meno disoccupati, che finalmente l'economia ripulisca. Scusami, Ilona, ci sono però frequenta molte suorine ancora, è molto legato a quell'ambiente lì di suore, eccetera, preti, religioni. Il presidente, sì, come no, il presidente, sì. Sì, ma non lo sapevo, però tieni conto, assolutamente, io auguro a Mattarella assolutamente di fare... A Cicciolino Mattarella, sì. A Cicciolino Mattarella, di fare un buon lavoro e di pensare proprio al nostro paese, al suo, il nostro paese, di farla finalmente sorridere alla gente, che la gente è molto triste, la gente senza soldi, c'è molta fame in giro e siamo un'economia disastrosa. Senti, una cosa, io a disposizione, se Cicciolino Mattarella vuole mi metto a disposizione. Ma dove ti metti a disposizione? Per fare cosa? Cosa vuoi che faccia? Utilizzare Cicciolino, come vuoi che ti utilizzi, amica mia, onorevole Staller, scusi, anche lei, ma scusi, momento, in questo senso, che io potrei essere un ottimo portavoce di come che? Turismo per tutto il mondo. Cioè, tu vuoi fare il testimonial del turismo? Che tipo di turismo? Ma che tipo di turismo, scusami? Turismo per tanta gente, non parlo di turismo sessuale, perché voi pensate subito di quelle cose. No, vabbè, ma ho capito, ma tu è testimonial, onorevole Staller, sa com'è, uno non è che pensa a lei come testimonial. Vengono in Italia perché Uffizi. Noi dobbiamo pubblicizzare quanto è bella l'Italia. Ho capito, non è che tu puoi fare, Ilona, il testimonial per l'Italia, del turismo in Italia, perché sì, va bene, puoi fare il testimonial. Allora mi può utilizzare per fare il partito di che? Ma perché vuoi essere utilizzata da Mattarella? Del ministro, sì, vorrebbe fare del presidente, sì, il consigliere di Mattarella. A titolo gratuito si cambia da farlo. Non è il partito, io farei il ministero dell'amore. Vabbè, ministero dell'amore è una roba vecchia, dai, una roba vecchia. No, però io voglio dirti una cosa. Non c'è mai stato. Beh, non a caso. È vero che Renzi vuole rifare il ministero del Mezzogiorno, che è un'altra puttanata, Dice vuole rifare il ministero del Mezzogiorno dopo tutti gli scandali e dopo tutta l'inutilità dei ministeri precedenti. Vabbè, io voglio chiederti una cosa, cara Cicciolina. Dovrebbe un pochettino tagliare un po' di cose. Ah sì, tagliare sicuro, tagliare sempre. Senti una cosa, ma hai visto Rocco Siffredi ti ha detto delle cose tremende in un'intervista. Io non lo capisco questo uomo, perché tutto sommato non era nessuno Rocco. Sì. Abbiamo inventato noi, abbiamo lanciato noi, io e Schicchi, con la nostra agenzia, sì. E vengo a sapere dai giornalisti, dalla Romania, dalla Svizzera, sì. E questa parla male di me, ma questa è fuori di testa. Sì, ha detto che sei una stronza nella vita, una stronza nel film. Stronza nella vita e stronza nel lavoro. Sì. Mi premetto una cosa, tra l'altro non abbiamo nessun tipo di, né che telefonate di buon anno, buon Natale, né amicizia, né niente, di nessun tipo. Ma ve lo siete inventato tu e Schicchi, Rocco? Abbiamo inventato sia Moana Pozzi, sia Rocco Siffredi, che non era proprio nessuno, era uno sconosciuto e nessuno lo sapeva chi era, punto. Era della nostra agenzia. Quindi l'abbiamo tirato su un personaggio cosa che adesso parla male di me, ma tu renditi l'idea. Ma l'hai visto all'isola? Non guardo l'isola, non mi interessa. Vabbè, ma l'hai visto così? In azione. Più o meno in azione. Lui l'ho visto, stavo accendendo la televisione, ben invecchiato. Invecchiato? Sembra mio nonno. Addirittura? Sì. Ma avete lavorato a lungo insieme, no? Non riconosco quel ragazzo di come era quando abbiamo fatto i film insieme, e ne abbiamo fatto film insieme con Siffredi. Sì. Però allora sì che era diverso, adesso spunta veramente. E poi tra l'altro io devo dire la verità che il mio preferito attore vivo americano era John Holmes. Lui sì che è carismatico. Lui sì, beh, è morto però, il signor Holmes. Lui è morto però ci ho lavorato io insieme con lui, che insomma era molto carismatico. Ma non ha mai avuto paura poi di ammalare. È tutta un'altra storia, credimi. Certo. Un'altra parte. Un altro carisma, ti dici. Beh, però anche Rock è diventato un'icona dei film porno, no? È diventato un'icona del sesso, è un mito assoluto, ha fatto un sacco di soldi col porno, è diventato produttore, è diventato praticamente un simbolo. I soldi li manda in Ungheria per le tasse, pare che deve dare per l'Italia 2 milioni. Tu dici se ne fotte dell'Italia perché sei andato in Ungheria. Si è fatto intanto la residenza in Ungheria, poi ho capito, però e sai, lei ora signore di cosa si occupa? Uno che vado a fare residenza in Svizzera. Beh, scusi un attimo, ma Ilona, lei di cosa si occupa ora, signora, oggi? Ma di che si occupa? Di tante cose? Allora, io faccio dei talk show televisivi, serate, c'è Picciolina Love Tour 2015, quindi io sono ospite ai vari fieri erotici, faccio la madrinata, spettacoli, show erotici, dove vogliono faccio l'ospitata, quindi faccio l'autografo, faccio selfie con i ragazzi, ragazze, senti, selfie, firmo sulle tette delle ragazze, o firmo sulle tette delle ragazze. Vasta, mi pare. Scusa un attimo Ilona, ma secondo te Rocco è ancora attivo da quel punto di vista, dal punto di vista sessuale? Bisogna chiedere da sua moglie. Ma secondo te? Non ho idea. Non hai idea. Non lo so. Però è molto legato alla moglie, Hai visto, sì. E non lo so perché noi non abbiamo nessun tipo di amicizia, noi non ci sentiamo, non parliamo, per cui ecco perché mi meraviglio che parla male di me, insomma, questa è la cosa più incredibile. Ho capito. Senti, ma tu la conosci una che si chiama Valentina Nappi, un nuovo idolo del mondo dei porno? Si chiama Valentina Nappi. No, però poi se mai me ne vado a vedere sull'internet. Ah, non la conosci, nemmeno la conosci? No. Poteva essere una tua erede, qualcuno dice l'erede di Cicciolina, sì, la signora Nappi, la signora Nappi. Senti, ma alla tua età come si fa dopo tutto quello che hai fatto ad eccitarsi ancora, a fare ancora, questo ogni tanto mi domando, Parenzo. C'è una canzone di un cantautore. Come fa? Che canta l'età non ha, la sessualità non ha l'età. Capito, ma tu però hai dato tanto da questo punto di vista. Io ancora devo dare, scusa. Ma qual è l'ultimo tuo sogno erotico? Che ho fatto per 2 anni e non ho fatto sesso, ma adesso sto pensando di magari, chissà, magari faccio come un ultimo grande film porno molto elegante per tutto il mondo. Ovviamente mi devono pagare tanti soldi. Questa è una notizia importante. Questa è una notizia importante perché sto trattando con degli americani. Hai smesso di fare porno quanto tempo fa? Scusa Ilona. Prima del mio matrimonio, quindi dell'88. 88 l'ultimo film porno che hai fatto? Vabbè. Sicuro? Sì, sicuro, sì. Dopo non hai fatto nessuna scena. Niente. Allora, dall'88, ultima scena che hai girato nell'88, adesso potrebbe esserci il grande ritorno, giusto? Per un film, un grande film, coproduzione magari italo-americano, sempre che se io comunque faccio, se mi interessa economicamente, se mi danno Quanti soldi ti devono dare? Se quello che io vorrei, e te lo potrei dire, tanti milioni di euro, ma non me ne danno milioni, dai, un po' esagerato. Comunque, che film... per quanto riguarda della mia grande popolarità in tutto il mondo, io dovrei chiedere, e non poco, capisci? Vabbè, perché lo venderebbero in tutto il mondo. Vabbè, dipende, dai, ormai i film porno non si vendono più, dai, ormai... ma non è che si parla di un qualunque, io sono un'icona. Vabbè, ma è più icona Rocco di te, dai, è più icona Rocco. Vabbè, cara Ilona, ti saluto, un abbraccio, ciao. È un punto di vista, sai? Ciao, ciao. Vai a chiedere dalla gente e così ti rispondono. Ciao, cara, ciao, ciao. Un bacione grande. Ciao. Allora, Massimo da Roma, Massimo. Oh, buonasera. Dimmi. Allora, mi sono un po' arrabbiato ieri sera. sì, sentendo Giovanardi. Perché? Però mi sono arrabbiato con fra voi. Poco avremo il fratello di Magherini qui ai nostri microfoni, intorno alle 20:15. Mi fa piacere. Comunque io mi sono arrabbiato con voi, non con Giovanardi. Quando si parla con Giovanardi o con gente come lui, bisognerebbe essere abbastanza preparati da potergli rispondere. Non si può permettere a un signore come Giovanardi di dire 10 volte che Magherini è morto per la sindrome per cui muoiono 100, certo, 200, gliel'abbiamo 300 detto, persone però, l'anno. Io gliel'ho detto. E che questo lo dice la perizia. Ah, ho capito. Come è morta una persona? Lo dice un'autopsia, non una perizia. Sì. Bisognava chiedere a quel signore: ma di che cazzo di perizia stai parlando? Sì, però Massimo, scusa, a parte che Parenzo stava ribatteva quello che diceva Giovanardi, rispondeva, brigava, eccetera, eccetera. Su questo non c'è il minimo dubbio. Dopodiché, questa sera abbiamo la testimonianza invece del parere del fratello di Magherini che risponderà a Giovanardi e forse addirittura annuncerà che vuole fare una querela nei confronti di Giovanardi. Qual è il problema? Non ho capito. Io gli ho detto a Giovanardi, tra l'altro, scusa però, caro Giovanardi, puoi anche avere ragione, però sarà il processo a decidere, no? Sulla base poi di altre perizie, sulla base di altre cose, eccetera, eccetera, o no? Giovanardi, che ci sono centinaia di persone ogni anno che muoiono per quel motivo. Ma quanti sono le persone che si fanno di cocaina ogni anno? Sì, gli ho capito, altri sì. Non muoiono perché non si sono fatti di cocaina o perché non incontrano i carabinieri? Ma ho capito, ma infatti io sono felice che ci sia il processo. Io ieri questa capacità da parte vostra non l'ho percepita. Ma ha ascoltato un'altra trasmissione. Esatto, allora. Ha ascoltato un'altra trasmissione perché Parenzo ha combattuto. Io, come al solito, avevo un ruolo diverso, attaccavo anch'io Giovanardi, ogni tanto l'appoggiavo. Non è che dice solo stronzate, Giovanardi, assolutamente no. Ha un punto di vista su questa vicenda e dice che il processo ai carabinieri, alla Croce Rossa internazionale, spesso avvengono perché c'è una pressione mediatica su questo. Io in parte ci credo. Questo è incredibile. Bene, Massimo. Mirella, Genova, vai, Mirella. Allora, buonasera. Ciao, ieri mi sono molto arrabbiata quando hai detto l'affare della zoccola. Poi vabbè, tu sei Cruciani, sei tu. Io volevo invece dire che sono felice per questa donna, uomo barbuto. Concita Wurst, sì, che andrà a Sanremo. L'amo. Perché l'ami? È la nostra liberazione, cirette, cirettine. Se passa questo concetto, per noi è il massimo, via cirette, è la nostra liberazione questo uomo, donna barbuta. Quello che non ha fatto, noi donne non siamo riuscite a fare, questo uomo, donna, forse riesce a farlo, cioè ci massacriamo con cerette. Che male! Hai mai fatto una ceretta tu? No, io non mi depilo. No, so neanche io, ma so non che mi piace. Male, però cara, Davide, insomma. Caro, tu hai mai fatto una ceretta? Non si depila nemmeno lui, ha tanti difetti, ma questo no. Però ci sono un sacco di uomini che si depilano. Sì, certo, ne conosco anche tantissimi. Perché si sentono meglio, perché non vogliono avere la peluria addosso. Anche quelli che fanno palestra, ad esempio, no? E quindi è una tortura. Se quest'uomo, questa donna, donna Concita, passa questo messaggio, ma è la nostra liberazione. Capisco. Unita a questa donna. Io non ho la televisione, sono andata a cliccare per vedere voi due come siete. Come siamo? Siamo brutti. Veramente. Scusa, ma cara Mirella, ma invece tu come sei? No, per curiosità. Rimorchia per te. Sei bellissima invece tu, Invece tu sei bellissima. Te lo dici da sola che sei bellissima. Sì. No, lo dicono anche gli altri, ma questo non c'entra niente. Noi invece siamo bruttissimi. Nonostante i baffi, Cruciani, fatene una ragione. Cioè, è che tu sia simpatico, sei arguto, delle volte dici veramente delle minchiate, scusami, che ma non stanno né in cielo né in terra. Dico quello che penso, Mirella. È preoccupante. Sarà preoccupante per te. L'uomo bruttissimo ti abbraccia. Ciao. Come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te. Ragazzi, veramente stiamo messi male, siamo alla frutta. Se non capite il mio pensiero, Vuole rispondere a Giovanardi Andrea Magherini, fratello di Riccardo. Ciao Andrea, come stai? Buonasera. Come andiamo? Benvenuto. buonasera a tutti. Non stai benissimo, mi sembra di capire, no? Dopo quello che ha detto Giovanardi. No, più che altro non sto benissimo perché ho perso un fratello. No, vabbè, certo, quello, certo, quello è scontato. Quello va da sé. Ma allora, oltre ad aver perso un fratello, c'ha anche un senatore. Scusami, un senatore. Scusa, un senatore. Guarda che ti guarella di nuovo, Giovanardi. Oh, brrr, che paura. Brrr. Vabbè, allora... C'ha anche un senatore della Repubblica che si permette di non vuole il processo, non vuole sapere la verità, non vuole perché un ragazzo muore, un signore muore nelle mani dello Stato. Questa è la presa per il culo che no, lui dice, non è morto nelle mani dello Stato. Di Magherini ha detto, deve non subire, è morto nelle mani dello Stato, ma perché era strafatto di cocaina. Ma io sì, voglio sapere da Andrea Magherini la sua risposta a questa sì, frase. Allora io prima di tutto mi vorrei presentare, oltre ad essere fratello di Riccardo, sono anche nipote di un carabiniere e questo ci tengo a dirlo. Mio nonno è stato carabiniere, ha fatto 2 anni di campo di concentramento, è stato un eroe di guerra, ha fatto campo di concentramento con la divisa. Per cui non ce l'hai con i carabinieri, diciamo. No, assoluto, cioè i carabinieri, noi siamo cresciuti vedendo mio nonno con la divisa. Col culto quasi dei carabinieri, si potrebbe dire o no? Sì, allora, vedendo, col culto di mio nonno che era un grande carabiniere, non come questi 4 cialtroni che sono intervenuti su Riccardo. Però scusa, perché li definisci cialtroni? Beh, perché gli esiti sono cialtroni perché l'hanno ammazzato, non erano preparati, l'hanno picchiato. Mio fratello aveva solamente bisogno di aiuto, lo chiedeva da tempo. Quando l'hanno incontrato era in ginocchio, e appena li ha incontrati gli si è alzato e li è andati ad abbracciare in segno proprio di aiuto, di rassicurazione che fossero arrivati, e l'hanno trattato come l'hanno trattato. Però scusami, Andrea, io capisco che questa è la tua idea, però fai il pari con quello che dice Giovanardi, questa roba qui. Cioè tu prima del processo sostieni che questi 4 carabinieri lo hanno ammazzato. Questa qua è una cosa che deve decidere il processo. Assolutamente, o no? Ma noi siamo in attesa del processo. Intanto siamo a processo. Intanto siamo? Siamo. Adesso richiamiamo Andrea Magherini, la linea è caduta. Adesso I had the radio on. I was driving. Ha dato di matto, poi collasso e morte. Questo ha detto Giovanardi, mentre richiamiamo il fratello di Magherini. Derrick, tenente Colombo. No, aspetta, è tornato. Non leggere la perizia dell'accusa, leggerei perché sono centinaia di casi all'anno di una situazione che si chiama excited delirium syndrome, che è esattamente il caso di Magherini, per cui per due, uno che è strafatto di coca, che incomincia a dare di matto, a insultare la gente e che poi alla fine di questa per ipotermia ha un collasso e muore. Allora, questo è quello che ha detto Giovanardi. Allora Andrea, io voglio capire una cosa. Prima ti ho detto sei così sicuro, come Giovanardi è sicuro che i carabinieri non c'entrano, si può dire tu sei invece sicuro che questi io sono sicuro che mio fratello è morto in mani dello Stato. Questo d'accordo, però hai detto anche che lo hanno ammazzato i carabinieri, scusami. Sì, lo hanno ammazzato i carabinieri perché... E quelli della Croce Rossa? Lo parla l'autopsia di quello che lui, che Giovanardi, insomma, parla di autopsia, dovrebbe anche chiarire degli aspetti quanto riguarda l'autopsia. Lui parla della consulenza tossicologica, Giovanardi, che è stata fatta prima da Mari, professor Mari, di Firenze, che dopo, in seguito a un verbale firmato per le 3 concause di morte di Riccardo, tra cui l'asfissia, chiede di essere affiancato dalla dottoressa Bertol, che risulta essere sua moglie, e il pubblico ministero asseconda la richiesta del professor Mari. Quindi stiamo a ragionare di un'autopsia che fa la moglie di un tossicologo che era stato incaricato, per di più che è biologa, quindi non è nemmeno un medico, che si permette di parlare di cause di morte, e per di più questa biologa, la professoressa Bertol, lavorava come consulente per Giovanardi. Cioè, no, tu mi stai dicendo che questa perizia tossicologica che citata ieri da Giovanardi, che secondo lui escluderebbe le violenze dei carabinieri, l'asfissia, ma ricondurrebbe la morte di tuo fratello solamente alla cocaina, diciamo, alla cocaina, è fatta da persone non competenti in primis, giusto? È fatta da una biologa, da un farmacista, che non possono esprimersi sulle cause di morte. E perché il PM gli ha dato questo compito, scusa, a queste persone? Il PM gli dà il compito di fare una consulenza tossicologica. E poi c'è qualche altra perizia in campo? E c'è l'autopsia, che è firmata dal medico legale, che è nominato, che è Norelli, e Focardi, che loro parlano di asfissia, del PM, sempre del PM sta parlando. Sì, sì. La consulenza tossicologica a un certo punto si stacca completamente dalla perizia autoptica e va per conto suo e decidono di farlo morire per droga, per excited delirium, una sindrome che in Italia non è mai esistita. Beh, lui dice di sì, Giovanardi cita invece decine di casi di persone. Ma decine di casi dove? Me le deve dire. Ve lo dirà lui. Fa morire Aldo Grandi per excited delirium. È una sindrome politica. Ma lo vuoi... inventata negli Stati Uniti per giustificare i fermi della polizia, i fermi violenti. Ma lo vuoi querelare Giovanardi per quello che ha detto, cioè che tuo fratello Giovanardi aspettiamo domani se si nasconde dietro l'immunità parlamentare con la questione Aldo Grandi, perché ha fatto tanto e poi si nasconde dietro l'immunità parlamentare. Però scusami tanto, ha detto una frase, no, Giovanardi c'è un processo, Giovanardi domani vabbè, dovrebbe processo, rinunciare vabbè. Dovrebbe rinunciare all'immunità parlamentare. Stiamo parlando di un'altra, dovrebbe rinunciare anziché fare i comizi nelle radio. Va bene, stiamo TV, parlando di un'altra cosa, stiamo senza parlando di la verità, stiamo parlando di un'altra cosa, del fatto che Giovanardi ha detto una frase ieri, che tuo fratello era strafatto di coca. Giovanardi dice delle falsità, ci insulta, ha ragione Manconi quando dice bisogna avere pazienza con lui, perché sembra una persona sola, senza affetti, infelice, che si rifà con noi che siamo vittime e familiari, perché ci vede pieni d'amore, sereni, convinti delle nostre idee e del nostro bisogno di verità e giustizia. Come fai a sapere che è una persona infelice, Giovanardi? Scusami, Andrea. Perché come parla, come può essere? Come parla, come può essere? È una persona felice, cioè uno che fa il senatore... C'è uno frustrato, secondo te? Ma uno frustrato, questo non lo so se è frustrato, ma lo stai dicendo te. Eh no, che ne so, tu prima l'hai fatto intendere. Lui si nasconde, è la cosa peggiore, come con Patrizia. Come con Patrizia Aldrovandi, cioè, lui dice che c'è una lobby di persone che spingono verso i processi e che costringono sostanzialmente, costringono, diciamo, tra virgolette, i magistrati. La eccetera. Lobby la rappresenta lui con questi pool di persone che vogliano indirizzare per forza le cose verso una certa maniera. È l'ora di finirla, ci siamo rotti le palle. Andrea, scusami un attimo, quando lui dice strafatto di cocaina, tu neghi che tuo fratello facesse uso di cocaina? No, perché questo qua è presente nelle perizie e tutto. Mio fratello faceva uso di cocaina, qual è il problema? Ma era strafatto, come dice Giovanardi? Non era strafatto, ci sono delle percentuali irrisorie, ci sono 0,3 di cocaina. Beh, però va bene, anche se fosse stato strafatto, ma uno deve morire per questo. Di cocaina? No, è chi dice? La legge? No, bisogna assolutamente a me no. Perché siamo strafatti di cocaina. Ma chi dice il contrario? Assolutamente no. La vita di una persona che è strafatta di cocaina vale meno di una vita di un carabiniere? No, assolutamente. Dice Giovanardi, sostiene Giovanardi che lui, appunto, strafatto di cocaina e come dire, in preda a escandescenze, eccetera, praticamente aveva distrutto un bar o comunque era fuori di senno e per bloccarlo poi è morto. Questa... Allora, Riccardo stava chiedendo aiuto, era terrorizzato, chiedeva aiuto da tanto. Quando sono arrivati i carabinieri, lui l'hanno trovato in ginocchio e gli supplicava aiuto. Appena li ha visti, li ha abbracciati. Prima di questo, lui, dal terrore, l'avete mai avuto una crisi di panico, no. Un terrore? No. No. Okay. No, c'è tante persone che l'hanno avuta. Lui chiede, siccome il telefonino l'ha perso, cioè non ha aggredito i carabinieri? Lui non ha aggredito i carabinieri, tutti dicono, lui, l'hai sentito il video, non dice una parolaccia. Io sto sentendo quello che mi stai testimoniando. Allora, non di ha cittadini, di nemmeno che un carabiniere, nemmeno uno. Lui, i carabinieri, dopo la morte di Riccardo viene dichiarato morto alle 3 di notte e i carabinieri vanno a farsi refertare dalle 3 in poi. Cosa vuol dire? Quello che ha preso le manette e senza che si sia spaccato, che lui dichiara di essere tirato dal sole nella colluttazione, va a farsi refertare e prende 7 giorni di prognosi. Lo sai, se si va io e te a farsi refertare per un male alle orecchie ci danno 10 giorni di prognosi. Sì, su questo non c'è dubbio. Senti una cosa, quello che gli dice, che dice di avere preso le mani i cazzotti da dietro, gli danno 2 giorni, Cruciani, 2 giorni, sono vergognosi, si devono vergognare. Come lo consideri, Giovanardi, tu? Dammi un aggettivo, come lo consideri? Io non lo consiglio, io Giovanardi, cosa devo... Giovanardi, è un senatore, come lo consideri? È una persona pubblica, comunque lo puoi anche ignorare, però dice certe cose, ha legami con i carabinieri, difende no, i carabinieri. Giovanardi è un vigliacco, perché prima insulta e poi si difende dietro l'immunità parlamentare. Cioè dovrebbe rinunciare all'immunità parlamentare. Va bene, ciao Andrea, ciao. Arrivederci, grazie. Ciao Andrea, ciao, ciao, ciao. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Tipi da zanzara. Tipi da zanzara. Vai Bastiano. Benissimo, io sono un pugliese come Lino Banfi, sì. Senti Cruciani, devi scusare, ma io devo fare un cazziatone, sai perché? Sì. Perché molto spesso ti metti a litigare con Parenzo inutilmente, tu che non capisce niente, no? E tu ti sforzi a fargli capire, o lo fa apposta, o, oppure ci marcia. Ecco, insomma, il Nobel, il Nobel. No, aspetta, è arrivato il Nobel. Parenzo il Nobel. Hai chiamato il Nobel. Il Nobel hai chiamato, l'uno bella. Allora, stai zitto, pezzo l'uno di coglione. Non chiamato. Sei un coglione sano, sei un coglione a metà. Tu, caro signor Cruciani, devi togliere Parenzo e devi mettere Rocco Siffredi e la signora Nappi. Mai così allora. voi fate più pubblicità rispetto a questo, questa situazione qua. Questa situazione. Non vi dovete accavallare, litigate. C'è un cliente, c'è un radioascoltatore che come me parla. Voi vi mettete a litigare, non si capisce un cazzo, né qua e né dove state voi. Non vi capite, non ci fate capire niente. Allora? Allora ti consiglio di licenziare Parenzo, sì. E prendi la Nappi e Rocco Siffredi. Cruciani, ti avevo telefonato per dirti che cos'è il conilingus, sì. E che cos'è l'anilingus. Ah, eccolo. Allora, professore, il conilingus, certo. Ognuno va bene, si fa alla donna, diciamo. Sul clitoride, eccolo. Con la lingua. Invece l'anilingus si lecca l'ano, sì. A una donna oppure a un uomo. Eccolo. Lo sapevi Parenzo? Il professore. Beh, tu non lo sapevi, adesso Bastiano ti sta spiegando che cos'è l'anilingus. Il professore che alla radio di Confindustria ci spiega alle 20.45 questa bellissima. Grazie della sua spiegazione, grazie. Benissimo. Hai fatto finta di non saperlo, a te te l'hanno fatto, vero? Comunque la tecnica è questa. Dimmi qual è la tecnica, caro. Dimmi. Allora, la donna si mette in posizione ostetrica. O l'uomo, o l'uomo. Sì, con un uomo, oppure con una sua compagna. Sì, allora? Va bene, si mette in posizione ostetrica. Ostetrica, sì. Va bene? Sì. L'operante, sì, l'operante. Linguale, sì. Si mette carponi, cioè con le mani a terra, e avvicina il naso, sì. Sull'arco pubico, sì. Va bene? Sì. Sotto c'è la lingua e c'è il clitoride. La, sì. Lingua titilla il clitoride, sì. E tu senti, fai salti mortali con lei o colui che riceve, con lei. Allora, invece l'anilingus, va bene, si fa... quello era il cunni, diciamo, no? Conni o cunni. O cunni, sì. Invece l'anilingus... L'ane è la parte posteriore, è uno schifo, proprio di uno schifo. Tipi da zanzara. Beh, questa era la spiegazione di che cos'è l'anilingus da parte del signor Bastiano da Foggia. Ma che signor è l'ambiente? Bastiano da Foggia. Ambiente di maiale, ambiente di maiale. Ma a questo punto, dai, dato che ci siamo, mandiamo il mitico reverendo Manning, il mitologico reverendo, sì. Manning, beh, un telepredicatore americano, ma ce ne vorrebbero tanti anche in Italia. Purtroppo questi personaggi in Italia scarseggiano, caro Parenzo. Cioè, sono veramente, anzi, non esistono, non si possono, non si possono questi, contare sulle dita di una non mano. Non il lavoro, non no, la riforma della ma giustizia, ci manca questi sono i problemi. C'è cioè, uno esatto. Veramente omofobo, ma veramente omofobo. Perché non ce n'è abbastanza. Ma no, quelli fi, alcuni buona. Sono finti. Anno, no, ma ti assicuro, dopo che tu hai sentito questa roba qui contro Starbucks, questo ce l'ha con Starbucks, non so perché adesso se la prenderanno pure con noi, questo reverendo Manning. Io sai che lo voglio intervistare, lo voglio portare alla zanzara, il reverendo Manning alla zanzara. Beh, sarebbe stupendo. Dai, un'intervista in inglese, cioè in inglese con la traduzione, perché non siamo. Intanto oggi, a proposito di mostri, hanno chiesto in Francia ai tribunali 30.000 euro al tuo amico Diodonné. 30.000 euro. Quello è milionario. Intanto li paga 30.000 euro. Il reverendo Manning è sostiene sostiene che siccome Starbucks è un posto frequentato soprattutto da omosessuali, ti giuro, sì, cioè praticamente versano il caffè, una cosa tremenda, ha detto il reverendo Manning. You know, a number of people un certo numero di persone pensa che il seme abbia un buon sapore. E allora Starbucks ha detto, visto che alle persone piace il seme e si bevono i fluidi corporali l'uno dell'altro, perché non mettono nei nostri caffè? Capito? Il reverendo Manning. Ma il reverendo matto, eh. Raffaele, provincia di Napoli. Pronto, buonasera Crociani. Niente, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Vabbè dai, non voglio complimenti, vai avanti, forza. Sì, volevo sapere solo una cosa. Non pensi che il patto del Nazareno possa essere rotto ai coglioni degli italiani? Gli italiani vogliono sapere che dai politici risolvere problemi concreti, la disoccupazione, il traffico. A me chi se ne frega del patto del Nazareno e i loro problemi tra di loro? Cioè, a me questo non me ne frega niente, dovrebbero parlare di problemi più concreti. E poi ti dico altre cosa, vorrei che andassi in trasmissione, non lo so, una volta a settimana in una di queste trasmissioni, perché tu dici le cose in maniera esplicita, cioè vederti anche in televisione sarebbe lei, invece sentire. Va bene, Raffaele, però non parliamo adesso di quante volte vado in televisione, che volevi dire? Perché hai chiamato? No, volevo dire, il patto, cioè invece di pensare al patto Nazareno, che io non ho capito un cacchio che cos'è, pensassi a parlare dei problemi concreti, risolvere i problemi concreti della gente. Non pensi che sia il solito politichese, il patto Nazareno? Ma lo dico da una vita io, Raffaele, però certamente per la politica è interessante capire se c'è un patto con Berlusconi, se Renzi si allea con altri partiti, se vuole cercare di fare un patto con i 5 Stelle, cosa impossibile, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne parla dall'inizio dell'avventura governativa di Renzi, per cui certamente è un argomento. Certo, dopo un po' annoia, non c'è dubbio che non c'è il minimo dubbio. Barbara Brescia, vai. Ciao Cruciani, ciao Farenzo. Io telefonavo solo per dirvi che per me una riferendomi a quello di prima, di Platinette, dell'uomo, sì, donna, sì, lì sì. Che va. Una persona nella propria vita deve essere libera di fare quello che si sente, quello che vuole, finché non fa del male agli altri. Questo è il mio pensiero. Uno deve essere libero di fare quello che vuole, purché non ferisce ovviamente un'altra persona. Brava. E deve avere questa libertà, sia nel rifarsi, se si vuole rifare, se c'è un qualcosa che non le piace, per l'amor di Dio, e sia nel modo di porsi. Perché finché tu non fai del male agli altri, uno per me deve essere libero di fare quello vabbè, che vabbè, ma a me lo dici. Io condivido il 99% quello che pensi. No, ma lascia perdere il 99%. Il punto fondamentale è questo. Sanremo ha scelto di invitare Concita Wurst e Platinette. Sono due artisti. Concita Wurst è un cantante, Platinette canta, è un uomo di spettacolo, prova questa nuova avventura, chi se ne frega, qual è il punto? Vanno valutati in quanto artisti, non perché uno si traveste da uomo e l'altro è un travestito, un uomo che si mette una donna, che è poi sta Concita Wurst, un uomo o una donna, io non sono riuscito a capire, è un uomo, bene, dunque pure quella signora che è intervenuta prima, quel che è, ma sì, ma anche la signora che è intervenuta prima, che ha detto finalmente una donna che si, no, con la barba, no, è un uomo, per cui che c'entra? Ti crede? Un uomo che si traveste da donna. Allora mi ha chiamato 3-4 volte Corona. Mauro, che c'è? Che sei incazzato nero? Che c'è? Che è successo? Ma cosa? Calmati un attimo. Cadi dalle nuvole, Cruciani. No, ma calmati, volevo che è successo? Dire a tutti gli ascoltatori, fammi parlare, Cruciani, perché so dove lavori. Ma che c'è? Dimmi. Volevo dire a tutti gli ascoltatori della Zanzara, sì, che la Zanzara è una bufala, una ma falsità, non c'è nessuna diretta. Ma come nessuna diretta? Cos'è? Cruciani, sì, che non hai niente. Ma prima abbiamo registrato una cosa, eri consapevole. Gli ascoltatori della Zanzara devono sapere che il palle. Signor Cruciani senza coglioni, ma qui senza non so coglioni, cosa ti palpa la moglie. Ma ha fatto finta di farmi una domanda così di chiamarmi. Ma non è vero, ma te l'ho detto poi che eravamo che stavo registrando. Vabbè, ma da quell'escremento di Cruciani che mi ha messo in onda. Ma figurati, ma non è vero, ma non è vero, non è vero. Ma eravamo in due. Ma eravamo in due, la Zanzara è una falsità. Va bene, come è una falsità, un accadimento precario, Cruciani. Non io, io ti voglio bene, ti voglio bene. Certo. Io ti voglio bene, ma se mi arrivi a tiro ti adesso che fai? Un affetto che tu non che hai. Che fai? Prova a venire su. Ma vengo con mia figlia, così non mi puoi fare niente. Ah no, con la figlia no. ascoltatori della Zanzara, chiudete la radio, che è una finta la Zanzara. Ma che finta, sei qui in diretta, è tutto vero. Ma chi ti mette in onda? Chi ti mette in onda a criticarci? Chi ti mette? Di Cruciani, è un eunuco Cruciani, sentite che vuoi. No, no, ce l'ho qua le palle. Ho qui le palle, che vuoi? No, ce l'ho. Puoi fare l'imitazione di Nostese. Mi sto toccando, ce l'ho qua, ce l'ho qua i coglioni. Ce l'ho qua i coglioni. È un eunuco di merda. Ma che eunuco di merda? Liquido, ma neanche una merda intera, sei un pezzo di merda. Mauro, adesso ti faccio parlare con mia figlia. Sono una bella diarrea, sarete ti faccio parlare con mia figlia. Vai a nasconderti senza palle. Ma che senza palle? Ti ho detto che stavo registrando, smettila. Ascolta, no, non me l'hai detto. Ma sì, non hai sentito, no, dai. Marco, fai ma figurati se non ho. Se... Guarda che Giuda. Qual è il problema? Di impiccarsi, ma tu non hai coglioni. Ma di quando mai? Dai, su, dai, dai. Non hai coglioni e non so cosa ti parla tua moglie. Ma che no... Poverina. No, ma adesso il pagliaccio che la speranza vince. Va bene, Mauro, senti, io ti voglio bene, per questo ti ho messo in onda. Ti voglio bene, voglio accarezzarti. Vieni su un momento, senza bambina. Quanti chilometri è là da Milano? Non lo so dove abiti tu, forse sono, non sai neanche, va là, va a Parigi, va là. Non ascoltate più la Zanzara, che è falsa. Ti voglio bene, ciao. Anch'io. Ti voglio e bene. Ti accarezzerò prima o dopo, ciao. Per dimostrarti il mio bene, ciao. Ti voglio bene. Comprate i libri di Corona, comprate sempre i libri di Corona. Mauro? Mauro? Vabbè, fa culo, dai. Aldo Torino, Aldo. No, Giuseppe, sono Aldo, sì, ciao, senti. Ti volevo dire, ti volevo venire in aiuto, dare un contributo alla sezione zoccola che tu dai alla donna, no? Per far capire alle donne che non hanno capito che è una cosa positiva. Io, per avvalare il senso positivo della sezione, dico, zoccola, quando sto con una donna che mi piace, io dico, ciao, sei la zoccola del mio cuore, quella con cui, la donna con cui sto bene proprio, no? Con cui esco attualmente. Prima di far l'amore, gli dico vieni qua, la bacio, gli dico vieni qua, zoccola del mio cuore. Ma che bell'ambiente. Perché le voglio bene, perché la zoccola, perché se non fosse zoccola non le vorrei bene come le voglio. Quindi la donna non si deve offendere, è un complimento. Oh, bravo Aldo, applauso, applauso, applauso, applauso, Aldo, applauso, applauso. Non sarebbe la donna del mio cuore. Quindi, donne, siate contente. Quando vi dicono zoccole... abbracciate i vostri uomini. Sì, però Aldo, scusa, adesso mi incazzo io con te perché sei una zoccola tu, perché hai il coso, hai il telefono collegato male con l'auricolare della minchia, tira fuori l'auricolare, prendi il telefono bene, perché non possiamo sentire le voci male. Questa è la radio, chiaro? Parenzo, dopo un po' di anni hai imparato, adesso stai in una situazione dipende, degna. Dipende, alle volte no, alle telefono volte no, sì, al telefono ancora, però dopo tanti anni. Aldo, avanti, prendi sto telefono meglio, su. No, avevo il lavavoce. Mamma mia, ma perché? Ma perché c'hai questa cosa? Perché? Vabbè, dimmi, allora tu dai della zoccola alla tua donna? Beh, è un ambiente pazzesco. Quando la faccio, quando la saluto, gli faccio un SMS di notte per dire quando non siamo insieme, le altre dinamiche sono altrove. Ti dico buonanotte, zoccola del mio cuore. Vabbè, ma bravo, buonanotte, zoccola del mio cuore. Vabbè, ma è normale, Aldo, è normale. Basta, è normale. Io non sto dicendo che chi non lo fa sbaglia, sto dicendo che se uno chiama la propria donna, la propria fidanzata, la propria amante, zoccola. È un delirio. E la chiama con amore, con gioia. E siete normali voi, vabbè. Vabbè, allora sei normale tu invece. Sei ma normale tu. Credo di sì. Sei libero, sei libero, quel quotidiano. Ti piace la normalità. Ti piace la normalità. Ti piace la normalità. Ti piace l'amore in senso classico, facciamo, diciamo. Ma non classico, ma tu non sperimenti nemmeno ma sei a livello un sondaggio. Tu sei, scusa, secondo me, sei a livello, te lo dico io, sei a livello che dici, cara, mi puoi salire sopra? Sperimentiamo una posizione nuova. Quello che sarebbe. Sì, secondo me tu sei così. Sperimentiamo una posizione, no, mi sali sopra, ma no, per carità, salire sopra, no. Ah, io sarei così. Ma che è un bel ambiente, ma che è un bel ambiente il nostro, ma Aldo, ambiente di maiale. Perché si sente così male questo numero uno di maiale, perché si sente, quella testa di cazzo di Parenzo, quando imparerà a mi saluti a casa donna, tutti, comunque nel mio cuore, vieni qua che ti voglio fare. Mi saluti a casa tutti, mi saluti a casa, e a questo punto mi saluti anche quella zoccola della sua fidanzata. Esatto. Se lo fa felice, se lei passami è contento così, le dico così, saluti anche quella zoccola della sua fidanzata. Passami la tua fidanzata. Siete Aldo, belli, sei strani voi lì, voglio siete vedere tutti se belli strani, voglio vedere se siete. È vero quello che dice. Ma io non lo so, Aldo, passami la tua fidanzata. Ma la gente è pazza, però con il cuore, perché lei te lo ammetterebbe. Io sto, lei sta a Milano, io sto a Torino. Vabbè, domani mi dai il numero della tua fidanzata. Domani mi dai il numero. Ti giuro. Ciao. Marco da Lecce, dai. Ciao Cruciani, ben trovato. Dimmi. Guarda, io voglio parlare con il signore ebreo, studio, lo dico con rispetto ebreo, perché voglio intraprendere 30 secondi di discussione. Vabbè, se non cominci a parlare, inutile dire voglio intraprendere 20 secondi di discussione. Il signore Parenzo si offende ogni qualvolta qualcuno faccia battute minime sugli ebrei sul genocidio. Dipende, vorrei sapere da lui cosa ne pensa del genocidio dei meridionali. Ma quale genocidio? Voi sempre ignorate. Ma sempre sì, è quello, uno è uno dei neoborbonici, questo matto. Ah. Dai. No, non sono uno, lei mi deve considerare. Il genocidio dei meridionali, ma dai. Mi dica, ma quale genocidio dei meridionali? Dai, mi dica come considera. Non esiste il genocidio dei meridionali. C'è il genocidio dei Khmer Rossi, il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei. Non esiste il genocidio dei meridionali, chiaro? Non esiste il genocidio dei meridionali. Non esiste. Io ignorante, vado a Ponte Landolfo. Ma quale ponte? Ma che ne so, ma quale genocidio dei meridionali? C'è stato qualche cidio durante. C'è stato qualche cidio? C'è una differenza tra. Il 1860 e il 1870, 10 anni, 1 milione di vittime. Ma quale milione di vittime? Ma quale genocidio? È una parola precisa, è una parola precisa, non è cidio. Borbonici. Genocidio dei meridionali, ragazzi, ma è una cosa. Un genocidio. Io divento pazzo. Guarda, devo chiudere. Starei con lei a combattere su questa cazzata. E alla fine sono sicuro che lei si convincerebbe del fatto che non esiste nessun genocidio dei meridionali. Nessuno, non esiste il genocidio dei meridionali. Non esiste. Ciao, domani. Buona zanzara a tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. No! Cioè, allora ti spiego. Radio 24. La passione si sente.